Capitolo 2. Non si fecero attendere nei vari rami dell'amministrazione le conseguenze funeste di quel sistema di neutralità. Si prenda ad esempio la situazione della polizia. Propriamente Fava era il presidente di un triunvirato in cui era accentrato, per questo settore, tutto il potere politico dello Stato. Ne faceva parte Lissoni, che certo meritatamente aveva buona reputazione, ma la figura di spicco era il barone Sopranzi. Un avvocato molto noto, cordialmente legato alla Casa d'Austria, amico di tutti i personaggi del governo austriaco e della polizia lombarda, nonché dei membri delle famigerate commissioni speciali del 1821. Il fatto che gli fosse cognato del generale austriaco Velden senza dubbio serviva a rifinire l'elenco dei suoi titoli di merito agli occhi del governo uscito dalla rivoluzione milanese. Mentre per ordine alla presenza di Velden 27 nostri sventurati volontari venivano mutilati e poi fucilati nei fossati che circondano le mura di Trento, Sopranzi, diventato uno dei direttori della polizia milanese, si diceva chiamato a tutelare il paese da ogni possibile complotto sedizioso a favore dell'Austria. Non si possono tacere i risultati della fiducia accordatigli. I comuni della Lombardia sono riuniti in distretti e ogni distretto è presieduto da un commissario di polizia che cumula con le sue attribuzioni quelle di sindaco, di sottoprefetto e di giudice di pace. La legge comunale lombarda è forse la più liberale di Europa, ma la sua attuazione è così imperfetta che il commissario si trova investito di un potere dittatoriale, quale esercitano in Turchia i cadì. Commissari, la cui retribuzione è tra le più modeste, sono scelti di solito tra gli impiegati di polizia di infimo rango e si danno senza scrupolo allo spionaggio, per poco che sia lucrativo. Primo atto della polizia rivoluzionaria di Milano avrebbe dovuto essere la destituzione di tutti questi funzionari, magari la soppressione della loro carica. Niente di tutto questo, invece. Nemmeno uno dei vecchi commissari perdette il posto. Questa erronea clemenza diede presto i suoi frutti. Le campagne furono inondate da miserabili cui l'Austria aveva schiuso le porte del bagno di Mantova e da sedicenti disertori delle truppe austriache. In parecchi capoluoghi di distretto i commissari si fecero una piccola guardia pretoriana formata da individui di questo tipo e da cattivi soggetti locali. Per mezzo loro gli austriaci erano al corrente di tutte le nostre mosse, mentre noi ignoravamo quello che sarebbe stato importante sapere. Per questa cospirazione permanente tollerata dal governo, viveri e altri oggetti destinati all'esercito piemontese più di una volta caddero in mano del nemico. Parecchi villaggi furono dati alle fiamme. Si rivolsero scopertamente minacce di morte ai padroni e la rivolta prese a serpeggiare tra i nostri miti contadini. La grande maggioranza della popolazione delle campagne non prendeva assolutamente parte a questi tumulti, ma neppure osava opporvisi, perché il ritornello del commissario e dei suoi accoliti era: «Presto tornerà Radeschi. Non fate l'errore di dubitarne, né lui né i suoi saranno mai espulsi da questa terra e al suo ritorno si farà giustizia. Chi gli sarà rimasto fedele sarà pagato con quello che verrà tolto ai malvagi». Chi avrà qualcosa da rimproverarsi sarà inchiodato al battente dell'uscio di casa. Fate tesoro di quello che vi è stato detto. I poveri contadini si ritirarono sgomenti e pieni di angoscia per sé e anche per quelli tra i loro padroni che sapevano compromessi. Il male andò più lontano. Tra gli incendiari catturati dai gendarmi, parecchi dichiararono di essere giunti da Mantova e di avere ricevuto danaro dalla polizia di quella città, a condizione che venissero nel milanese a seminare la discordia tra i lombardi. La giustizia non li perseguì e parecchi di loro furono rimessi in libertà dopo qualche giorno di prigione. A poche leghe da Milano c'è una fabbrica di polvere da sparo, nota con il nome di Polveriera di Lambrate. All'improvviso, all'inizio del mese di maggio, mentre nessuno a Milano pensava alla possibilità di infiltrazioni nemiche, si apprese una mattina che la polveriera di Lambrate era stata attaccata nottetempo da una banda di austriaci travestiti. Chi li aveva guidati? Come erano potuti arrivare fino alle porte di Milano e come mai erano passati inosservati? L'enigma rimase irrisolto e la direzione della polizia si chiuse in un silenzio sdegnoso. Un altro giorno, a un tratto, si sentì suonare a raccolta. Le guardie nazionali corsero di furia a Porta Nuova, alle prigioni. 500 detenuti per furto e omicidio inspiegabilmente erano stati provvisti di armi e di munizioni. Avevano catturato i guardiani, li avevano rinchiusi nelle celle, si erano barricati e tentavano di evadere in massa minacciando di sparare su chiunque accennasse ad avvicinarsi. La Guardia Nazionale represse presto la rivolta e, dopo aver riportato quei miserabili nelle prigioni, denunciò alla giustizia i guardiani accusandoli di aver fornito armi ai detenuti e favorito il loro tentativo di evasione. Tanto più fondati apparivano i sospetti, in quanto il personale dell'amministrazione delle prigioni era rimasto quello di prima e molte monete austriache erano state trovate nelle tasche dei detenuti e dei loro custodi. Nonostante indizi così gravi, la denuncia fu archiviata. La conduzione delle finanze non fu migliore di quella della polizia. Prima cura del governo avrebbe dovuto essere quella di trovare denaro, soldati e armi. Alla partenza degli austriaci l'erario era così esausto che la scadenza quadrimestrale dell'interesse del debito pubblico bastò 9 giorni dopo a farlo fallire. Il fatto non fece rumore perché i creditori, che erano milanesi, attesero senza impazienza e senza proteste che rientrassero soldi nelle casse dello Stato. Per far fronte alle spese necessarie, il governo aprì un prestito volontario e una sottoscrizione per le oblazioni dei cittadini. Dapprima si stabilì che il prestito sarebbe stato senza interesse, poi, visto che la somma raccolta non cresceva abbastanza celermente, fu promesso un interesse del 4,5%, quindi si arrivò all'offerta del 5%. Questa procedura aveva un pessimo effetto sulla gente. Il suo significato evidente era che il prestito con il solo sostegno della generosità cittadina non andava avanti, e questo era vero. Ma i provvedimenti adottati dallo Stato tendevano anche a far credere che l'insuccesso fosse causato dall'avarizia dei proprietari e dei capitalisti lombardi, e questo era falso. Il prestito aveva in sé, nella sua stessa concezione, i germi del proprio rapido fallimento. Parecchie volte cercai di convincerne il governo, ma non ebbi più fortuna di altri. Il fisco non accettava che denaro in contanti per il prestito, o a titolo di oblazione valori effettivi come gioielli e argenteria. Qual è il privato, per quanto ricco, che tenga in un cassetto somme tanto consistenti da poter soccorrere uno Stato alle strette? Il commercio, spaventato dalla guerra e dalla possibilità di rovesci, aveva sospeso le sue operazioni e i capitali erano scomparsi dalla piazza, sicché i proprietari della zona più fertile d'Europa non ebbero nemmeno la possibilità di vendere le loro terre e realizzarne il valore effettivo per venire in aiuto del paese. La difficoltà era tanto più grande in quanto il prestito era stato aperto all'inizio dell'estate e i fittavoli lombardi usano pagare i loro affitti ai proprietari a 3 scadenze, in agosto, in novembre e in dicembre. In giugno e luglio tutte le case erano pressoché vuote. Si potevano offrire all'erario 2, 5, 10.000 franchi, ma quasi ci si vergognava di dare così poco. E dare di più era impossibile. Quanto alla sottoscrizione volontaria, essa racchiuse piccole somme per un ammontare complessivo di quasi 4 milioni di franchi. Era molto, perché i 4 milioni uscivano dalla borsa di poveracci e rappresentavano innumerevoli sacrifici affrontati per un sentimento patriottico, ma in effetti non costituiva quasi nulla se rapportato ai bisogni dello Stato. Perché il governo non cercò di ottenere un prestito da qualche grossa banca genovese, francese, inglese o americana, offrendo in garanzia il territorio lombardo, i cui proprietari più ricchi erano disposti a ipotecarne una parte notevole? Essendosi rifiutato di ricorrere a questo mezzo, il fisco prolungò la sua esistenza soltanto a forza di palliativi. Chiese in anticipo 4 rate dall'imposta fondiaria e emise un'imposta sui capitali presi a prestito, facendola gravare sul debitore e non sul creditore. Era un provvedimento rovinoso, soprattutto per il commercio, che si fonda essenzialmente sulla facoltà assicuratagli dal credito di usufruire di capitali altrui. Così si trovavano all'improvviso gravati da un nuovo imprevisto carico che sconvolgeva tutta l'economia dei loro affari. Proprio i negozianti e i proprietari che, non disponendo di risorse bastevoli ai loro bisogni, si erano visti costretti a prendere a prestito un capitale. Con il tempo, il peso di quella imposta, determinando una diminuzione dell'interesse sul capitale, si sarebbe equamente ripartito tra il debitore e il creditore. Ma introdotta di colpo, essa perturbava in modo grave i patrimoni e gli affari dei più deboli. Risultato insufficiente il gettito della nuova imposta, il governo pretese l'argenteria dei privati e gli arredi di valore delle chiese. In questo modo rastrellò più di 4 milioni di franchi. Sfortunatamente, simili espedienti non potevano avere che un'efficacia passeggera. In mancanza di una buona e corretta amministrazione che contenesse le spese ordinarie e in mancanza di un fondo di cassa sufficiente per far fronte a quelle straordinarie della guerra, il deficit finiva sempre con il riemergere. Di fronte agli imbarazzi finanziari del governo provvisorio, ci si domandava come mai la Lombardia, che aveva mantenuto fino a quel momento un esercito austriaco, la cui consistenza aveva raggiunto in certi periodi gli 80.000 soldati, e per quanto male amministrata aveva consegnato ogni anno all'Austria tributi per non meno di 40 milioni, non riuscisse a bastare a se stessa dopo che quell'esercito e quel tributo avevano cessato di pesarle addosso. Questo fatto poteva spiegarsi in due modi. Anzitutto, l'esercito austriaco era stato in parte sostituito da quello piemontese, per il cui mantenimento, in seguito a una convenzione tra i governi piemontese e lombardo, era stato messo a carico della Lombardia un tributo mensile di oltre 3 milioni di franchi. In secondo luogo, il governo provvisorio si era compiaciuto di far mostra di filantropia, aveva soppresso di colpo, senza sostituirli in alcun modo, la tassa personale e il lotto, e aveva al contempo diminuito notevolmente l'imposta sul sale. Questi provvedimenti, ottimi in tempo di pace, erano stravaganti in tempo di guerra e in un momento in cui le casse dello Stato erano vuote. Essi significavano per il contadino e per le classi povere in generale che il nuovo governo si proponeva di rendere la loro vita meno dura. Era come un impegno preso, e questo impegno, nella crisi gravissima in cui ci si trovava, di fronte alla spaventosa catastrofe che si avvicinava, nessuno avrebbe potuto mantenerlo. In effetti, quando l'abolizione della tassa personale e la diminuzione del prezzo del sale furono annunciati, il popolo provò un sentimento che non fu di soddisfazione, ma piuttosto di speranza. E ravvisò in quei provvedimenti meno un vantaggio immediato che la garanzia di un progressivo miglioramento della sua condizione di vita. Quando poi, invece di raggiungere il benessere, si vide portare via i figli dalla guerra e le risorse dalla rovina del commercio e dalla forzata economia dei ricchi, scontento sospirò dietro le sue illusioni distrutte e non pensò più al tenue beneficio che aveva ricevuto all'inizio. Era stato preparato al benessere nel momento in cui non gli si sarebbero potuti proporre che sacrifici. L'abolizione del lotto era poi una misura in effetti altamente morale, ma poco saggia vista la penuria di denaro di cui si soffriva e il malcontento che il provvedimento non poteva mancare di provocare. Se i nuovi aggravi determinati dal mantenimento dell'esercito piemontese e dagli altri provvedimenti intempestivi avevano molto complicato la situazione dell'erario, accelerare la rovina delle nostre finanze fu soprattutto l'estremo disordine che cominciò a regnare in ogni settore dell'amministrazione. La scelta dei membri del governo provvisorio non era stata buona. La scelta dei loro collaboratori risultò peggiore. Nei giorni che seguirono la cacciata degli austriaci, molte persone ebbero posti che si attribuirono da sole. Più tardi furono i clienti delle grandi famiglie a impadronirsi degli impieghi più remunerativi. Un consistente numero di vecchi impiegati, creature dell'Austria, rimase al suo posto, contando sul ritorno degli austriaci, ritorno che favorivano con tutte le forze, e si approfittarono della situazione provvisoria per arricchirsi impunemente. Seguiamo l'azione del governo provvisorio su un altro terreno. Il Ministero della Guerra era quello in cui si commettevano le dilapidazioni più vergognose. Il capo del ministero, il conte Litta, uomo onorato e cittadino eccellente, si era ammalato e l'interim del ministero era stato affidato a Collegno, un emigrato piemontese del 1821, amministratore integro e liberale, ma debole e stanco di rivoluzioni. Collegno andava meglio a quelli del governo provvisorio di Litta. Così quest'ultimo non riuscì più a riprendere il portafoglio della guerra. Rifiutò di ritirarsi e per qualche giorno tenne duro, ma alla fine, posto di fronte all'alternativa di cedere o di far scoppiare discordie intestine, si dimise. Fu Collegno, suo successore, ad affidare pubblichi incarichi al generale Perrone, del quale pressoché tutto l'esercito ebbe poi a lamentarsi. Collegno e il generale in capo, Teodoro Lecchi, un vecchio generale del Regno d'Italia, non seppero mettere fine alle irregolarità che si commettevano al Ministero della Guerra e suscitavano l'indignazione pubblica. Il burocrate, dalle cui mani passava tutto il denaro del Ministero, il tesoriere capo era un vecchio commerciante, bancarottiere noto e 3 volte recidivo. Mancavano di scarpe, di abiti, di mantelli, di tutti gli oggetti di prima necessità. L'esercito lombardo e i corpi franchi dei volontari. L'armamento non progrediva perché non c'era denaro, eppure tutte le rimesse delle famiglie agiate dovevano essere pervenute all'erario. In città non si mormorava che di furti impudenti commessi da questo o quel membro dell'amministrazione, e tali voci, benché in parte false o esagerate, finivano di distruggere la fiducia inizialmente riposta dal popolo nel governo. L'opinione pubblica si palesava in ogni occasione. Sfruttava ogni mezzo di cui potesse disporre per scongiurare il governo di discolparsi o di fare giustizia dei funzionari colpevoli. Si diceva: per consolidare la vostra posizione ricorrete sempre, come nel caso del prestito volontario, a provvedimenti basati sulla fiducia reciproca. Allora fate in modo di conquistarla, questa fiducia di cui avete vitale bisogno. Ma no. Il governo non ascoltava, metteva una sorta di puntiglio nel non far nulla che potesse assicurargli l'appoggio dell'opinione pubblica. Nell'attesa, la popolazione esitava. Si chiedeva se il denaro di cui faceva dono alla causa dell'indipendenza sarebbe stato effettivamente impiegato al servizio della patria. Attendeva prove pro e contro, e intanto il tempo passava. Il problema dell'armamento era uno dei più difficili tra quelli che il governo provvisorio avrebbe dovuto risolvere. Per comprendere l'orientamento governativo sulla questione, non bisogna dimenticare che dalla fine di aprile, epoca della malattia del conte Litta, tutti gli impieghi al Ministero della Guerra furono affidati a piemontesi, che si adeguavano alle idee dei capi dell'esercito del loro paese. Quanto al generale in capo Teodoro Lecchi, egli non ebbe mai un effettivo potere in quell'amministrazione. Dal giorno della partenza degli austriaci, tutta la popolazione giorno chiedeva di andare a combattere. Si rispondeva con l'obiezione che le armi mancavano e con la promessa che si sarebbe provveduto prontamente. Nonostante questa assicurazione, la Guardia Nazionale si armò lentamente, ancora 8 giorni prima della capitolazione di Milano, quando il popolo, tumultuando di fronte a Palazzo Marino, rifiutava di disperdersi se non si fosse immediatamente decretata la leva di massa. Si ribatté: come volete che si decreti la leva in massa se in città non ci sono armi? Ma 8 giorni più tardi il popolo avrebbe scoperto, nascosti nel palazzo detto del genio militare, 62.000 fucili. Non entrerò nei particolari delle trattative fallite, degli ordini dati e ritirati, dei 1.000 ostacoli che senza fine vennero frapposti all'armamento e all'equipaggiamento delle truppe lombarde. I fabbricanti di armi di Brescia si erano impegnati a consegnare al governo 500 fucili alla settimana. Ma non si giunse a un accordo. I fabbricanti di tessuti di Como avevano offerto la consegna entro un termine preciso di un certo numero di pezze di panno verde per le truppe, ma si oppose un rifiuto. Pubblicato il primo bando, i coscritti che arrivavano dalle campagne non trovarono in città equipaggiamento e neppure alloggiamenti. E quando finalmente si cominciarono a formare i reggimenti, la cosa avvenne con una lentezza e una goffaggine desolanti. Il duca Visconti si era offerto di costituire un reggimento a proprie spese e gli fu dato un brevetto di colonnello. Era un uomo animato dalla miglior volontà, ma ignorava perfino i rudimenti dell'arte militare. Per ufficiali, il duca scelse alcuni piemontesi di capacità a dir poco dubbia, dato che i militari validi di quel paese erano già occupati nell'esercito di Carlo Alberto. Nel suo reggimento la disciplina era bandita, lo componevano uomini grandi e grossi, ma ignoranti e rozzi, accorsi sotto la bandiera perché la paga promessa era di 30 soldi al giorno. Un altro reggimento di cavalleggeri aveva per colonnello il giovane conte Max Caccia, eccellente ufficiale dell'esercito francese, ma proprio la sua intelligenza e le sue cognizioni militari gli rendevano penosa la situazione. Non citerò che un esempio delle contrarietà che dovette sopportare. Inutilmente per 3 mesi aveva continuato a chiedere cavalli per i suoi soldati. Infine, non avendo ottenuto che animali giovani, inutilizzabili, si vide costretto a dimettersi. La triste situazione del paese che era stato chiamato a difendere e l'impegno dell'amministrazione di accogliere le sue richieste lo indussero tuttavia a tornare sulla decisione e a riprendere il suo posto. Le lungaggini e la scarsa abilità dei capi che avrebbero dovuto curare l'organizzazione dell'esercito, l'inettitudine e anche la disonestà di troppe persone incaricate di provvedere alle spese militari, avrebbero paralizzato, bisogna riconoscerlo, il governo meglio intenzionato. Anche se non fosse stato così, se si fosse potuto disporre di elementi più zelanti e più valenti per tradurre in atto decisioni più oculate, sarebbe stato pur sempre impossibile anche per organizzatori dotatissimi formare un buon esercito in 2 o 3 mesi. La popolazione lombarda se ne rendeva conto, sicché esitava ad arruolarsi nelle truppe regolari e preferiva unirsi ai corpi franchi dei volontari. Occorre anche dire che forse non c'era altra scelta per una popolazione rimasta a 36 anni estranea all'aspra disciplina della vita militare, che tuttavia ambiva di mettersi subito in luce nella carriera delle armi. Sin dai giorni che seguirono la rivoluzione milanese, si costituirono parecchie bande di volontari che subito partirono per il Trentino, dirigendosi verso i laghi di Garda e di Idro. Tra i giovani appartenenti alle famiglie più distinte della città, tutti quelli di animo ardente e generoso si arruolarono in quei corpi, dove non si facevano distinzioni di classe e non c'era spazio per ambizione di gradi. In città si pensava che le colonne di volontari formate così in fretta fossero l'avanguardia di corpi più consistenti che il Ministero della Guerra non avrebbe tardato ad allestire. Quale doloroso stupore quando si sentirono i capi del Ministero parlare con disprezzo profondo della nobile gioventù che con tanto slancio era andata ad affrontare il nemico. Nelle sfere ufficiali non soltanto non si faceva alcun conto, questo appariva chiaro, di quei primi gruppi di volontari, si respingeva vivacemente ogni proposta di formarne di nuovi e si dichiarava in modo molto risoluto che mai si sarebbe fatto ricorso a forze simili. E non bastò al governo l'aver umiliato i volontari con il suo disprezzo, anche con altre armi fu fatta loro guerra. I soldati, anche meglio equipaggiati in partenza, si trovano presto, iniziata la campagna, a mancare di tutto se i loro capi non provvedono. Eppure, sotto il comodo pretesto che le legioni di volontari erano composte di giovani di famiglie agiate, non si assegnò loro un soldo e si lasciò che restassero privi di ogni cosa. Dislocati sulle alte montagne del Trentino, semisepolti nella neve, senza tende, senza medici, senza ambulanze, i volontari lombardi dormivano allo scoperto, in mezzo a una popolazione spaventata, povera e avida, che per risarcirsi dei pericoli cui veniva esposta, privava quegli infelici delle loro ultime risorse e si faceva pagare a peso d'oro ogni pezzo di pane. Spesso quei giovani soccombevano agli stenti, ma non si lamentavano. Era loro caro un posto di combattimento, di continuo attaccato, in cui potevano servire il loro paese. E che cosa faceva il governo per rendere omaggio a quella eroica dedizione? Mai un bollettino ufficiale segnalò gli scontri sostenuti dai volontari lombardi e neppure i loro successi. Non uno dei loro nomi fu indicato ufficialmente alla gratitudine dei contemporanei al ricordo della storia. Le madri che persero i figli nelle gole del Tonale o del Caffaro mai ne sentirono onorare le tombe con una parola di elogio. E a noi davano notizia dei combattimenti dei nostri volontari soltanto i molti vuoti che ognuno di quegli episodi ignorati lasciava nelle nostre famiglie. A Pavia gli universitari formarono un battaglione che partì per il campo. A Milano, liceali, alunni di collegi, anche seminaristi fecero lo stesso. Quei giovani avevano insistentemente chiesto di essere inviati senza ritardi ad affrontare il nemico. Furono diretti su Mantova e lì, sotto il fuoco e alla portata del cannone austriaco che li decimava, furono condannati all'immobilità. Divisero in quest'occasione le sorti dei lombardi i volontari svizzeri, una compagnia svizzera di 100 uomini che si mise a disposizione del Ministero della Guerra fu inviata sotto le mura di Mantova. Di 100 volontari ne sopravvissero soltanto 2. 98 erano stati uccisi non in battaglia, ma nel loro campo, inattivi. Alle notizie che giungevano dal campo posto di fronte a Mantova, la popolazione di Milano reagì e per una volta le sue proteste non restarono del tutto inascoltate. La posizione, così infelicemente scelta, fu abbandonata e le tende furono spostate qualche passo più indietro. L'ardore dei nostri volontari non veniva meno, nonostante tante prove dure e tanti sordi intrighi. Relegati nelle montagne, accusati di mancare di disciplina e di rovinare lo Stato, e si sopportavano con una pazienza incrollabile fatiche senza gloria. Con il pretesto che era necessario riorganizzarli su basi più solide, 3 volte si decretò lo scioglimento dei corpi franchi e si giunse a imporre ai volontari di abbandonare le linee che presidiavano e a concentrarli nella città di Brescia in attesa di un nuovo regolamento e di nuovi capi. Neppure questo riuscì a scoraggiarli. Infine, senza che fosse stato dato il minimo seguito ai reiterati annunci di riorganizzazione, i capi dell'esercito permisero che tornassero alle loro posizioni. Si continuò dunque la guerra con il concorso dei volontari, il cui servizio era stato offerto e accettato agli inizi della campagna, ma si decise, e questo prova la versione che ispiravano ai capi dell'esercito regolare, di non accettarne di nuovi. Giovani usciti dalle scuole militari, vecchi ufficiali che avevano prestato servizio nella legione straniera, francese o in Spagna o in Svizzera o anche sotto l'impero, inutilmente si presentarono al Ministero della Guerra. Un rifiuto sprezzante era l'unica risposta che riceveva la richiesta di entrare come semplici soldati in un corpo di volontari. Più di una volta ho avuto occasione di raccomandare io stessa vecchi militari che, volendo a ogni costo servire la causa lombarda, chiedevano di essere ammessi nell'esercito come semplici soldati. Le mie domande furono sempre accantonate per questa sola ragione: gli uomini così reclutati sarebbero stati altri volontari. A opporsi al reclutamento di volontari non era soltanto il governo provvisorio, ma anche lo Stato Maggiore dell'esercito piemontese. Ci si lamentava del fatto che il contingente lombardo non fosse né abbastanza numeroso né abbastanza preparato al mestiere della guerra, ma Carlo Alberto non voleva che i corpi franchi guerreggiassero in aperta campagna perché, diceva, in tempo di guerra tutti i militari catturati senza divisa venivano fucilati e non voleva esporre i volontari a una simile sorte. Non infondatamente si rilevava l'inesperienza militare dei Lombardi, ma proprio per quella inesperienza sarebbe stato necessario impiegarli nell'unico tipo di guerra che poteva offrire loro qualche possibilità favorevole, intendo dire nella guerra per bande. Durante i 36 anni del regime austriaco, il rispetto di se stessi aveva imposto ai Lombardi di astenersi da ogni funzione pubblica, sicché era rimasta loro soltanto la possibilità di scegliere tra la vita frivola dell'uomo di mondo e l'appartata esistenza dell'agricoltore. Il lombardo è, tuttavia, per sua natura ardimentoso e lo ha provato nelle 5 giornate di marzo, ma senza l'educazione militare il coraggio non basta a fare un buon soldato. Il tempo che avrebbe richiesto la formazione di un esercito regolare lombardo mancava assolutamente ai generali incaricati di organizzarlo. Non sarebbero occorse che 24 ore, viceversa, per formare un corpo di partigiani che, per quanto messo assieme in fretta, avrebbe sostituito con vantaggio certi reggimenti malamente disciplinabili. Bisogna proprio dirlo. Carlo Alberto voleva fare la guerra con il solo esercito piemontese e per questo evitò, sin che poté, di invocare l'intervento francese e per questo respinse le offerte di servizio di ufficiali e persino di generali stranieri attratti in Italia da una personale dedizione alla causa delle nazionalità e della libertà. Per questo, infine, si mostrò tanto ostile ai volontari lombardi e accolse con tanto malgarbo le truppe che gli mandarono gli altri stati italiani.